Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciani, sono depresso. Ora inizia l'estate. Tu vai in ferie e io vado in crisi d'astinenza. Probabilmente andrò dagli Zanzarosi Anonimi. Salve, sono Giuseppe. Ho iniziato ad ascoltare la Zanzara 2 anni fa e da allora non ho più smesso. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, caro David, un ascoltatore mi ha segnalato oggi una cosa del genere. Adesso ti mando l'audio, ti mando il WhatsApp immediatamente. Te lo mando immediatamente. Sì. Perché non è che sono solo i pazzi che chiamano nei WhatsApp, quelli che tu chiami miserabili, eccetera, eccetera. Miserabili, sì, certo. No, ci sono anche persone che informate, gente che dà suggerimenti, gente che ti dice fai questo, fai quest'altro, che ti dice guarda quello che ha scritto, eccetera. È una grande rete in realtà, una grandissima. In una stalla c'è sempre una mucca più intelligente di altri. No, è una grande rete di persone che danno informazioni che aiutano la costruzione collettiva di questa trasmissione. Sì. Però non voglio esagerare con la prosopopea, non voglio esagerare con la retorica, e ti faccio ascoltare questo che mi ha parlato di una cosa che ha fatto la signora Boldrini. Anche qui non bisogna sempre criticare la terza carica dello Stato, per carità, però uno mi segnala questa cosa qui, senti. Cruciani, a quanto pare la Boldrini avrebbe chiamato il direttore del centro trasfusionale di Barletta dicendole: potrei donare il mio sangue facendolo trasportare da Roma. Allora, c'è stata nei giorni scorsi, credo, una richiesta di sangue, no? Da parte delle istituzioni o dunque da parte di chi se ne occupa. Adesso pare che la Boldrini abbia chiamato un signore che si chiama Perez, che è il presidente del centro trasfusionale di Barletta, e dicendo: sto donando il mio sangue a Roma per la Puglia, per l'incidente stradale e l'incidente ferroviario, e vorrei che il mio sangue arrivasse giù da voi. Vabbè. No. Come vabbè? Cioè, tu doni il sangue e poi chiami il presidente del centro trasfusionale per far sapere che stai donando il sangue? Ma come ti può venire in mente una cosa del genere se non per fare propaganda? Perché no, è chiaro. Non lo ha diffuso Urbi e Torbi facendo una conferenza stampa, mi pare. Adesso non lo so. Mio, adesso ti faccio sentire quello che ha detto questo signor Perez. Aspetta, mica è solamente una cosa dell'ascoltatore che ha mandato il messaggio, fermo. Il signor Perez, questo qua che io non conoscevo, sconosciuto a tutti gli italiani, persona bravissima che fa il suo lavoro, eccetera, eccetera, che riceve una telefonata dal presidente della Camera, la quale sta donando il sangue per la Puglia. Secondo lei sta donando il sangue per la Puglia a Roma? Cioè, secondo lei il suo sangue dovrebbe arrivare giù in Puglia, capito? Cioè, una roba che non sta né in cielo né in terra, come sai, no? Se conosci bene queste cose sulle donazioni, a parte che le donazioni sono sempre anonime, no? Cioè, non è che uno c'è scritto sopra la fialetta presidente della Camera, sangue del presidente della Camera. No, non funziona così. E la signora Boldrini lo sa benissimo. O sbaglio, caro Parenzo? No, su questo hai perfettamente ragione. Ah, non è che ha il nome. Cioè, per te non è una cosa assurda il fatto che il presidente della Camera chiama uno che è il direttore del centro trasfusionale, il direttore del centro, sì, trasfusionale di Barletta, e gli dice: guarda, c'è il mio sangue se vi serve. È un po' una sciocchezza. Ragazzi, dai, è una puttanata demagogica e propagandistica. Uno può donare il sangue come vuole. Naturalmente è giusto, uno dona il sangue, per carità. Però chiamare quello per dire: c'è il mio sangue qua, vorrei che arrivasse giù. Ah, dai, su. Si è chiamato proprio 5 minuti fa, che stava donando a Roma. Mi ha chiesto se ci fosse stata la possibilità di far arrivare il suo sangue da Roma qua in Puglia. Io l'ho ringraziata, però ho detto che tranquillamente i cittadini pugliesi si stanno adoperando a queste necessità trasfusionali, però mi ha fatto molto piacere che anche lei stava a Roma al servizio trasfusionale di un ospedale di Roma donando il sangue per i cittadini pugliesi. Guarda, a me va bene tutto, il fatto che uno si mobilita per donare il sangue, ovviamente va benissimo, per carità, se lo fa anche uno, il Presidente della Camera, magari per dare una testimonianza, no? Bisogna donare il sangue se c'è bisogno, va tutto bene, poi uno va tutto bene, però chiamare quello e dire vorrei che il mio sangue arrivasse giù da voi, con scritto, con la fialetta scritta magari sangue del Presidente della Camera, no, questo no. Allora, c'è uno dei 5 Stelle che se la prende col ministro subito, eh? Il primo responsabile politicamente è il ministro dei trasporti, dice il signor D'Ambrosio. D'Ambrosio, 5 stars. No, ministro, lei è il primo responsabile politicamente di questa tragedia. Sa perché? Le dico una data. State in silenzio, per cortesia. Come vi abbiamo ascoltati noi... No. Allora, scusate, colleghi, è la Presidenza che invita al silenzio. Grazie, Presidente. Sì, no, per cui lei proceda con il suo intervento. E mi faccia cortesemente recuperare... Per favore, colleghi. Allora abbiamo l'audio di Renzo Bossi, che dice che viene a sapere della laurea dall'indagine, cioè la laurea a sua insaputa. Fino adesso sapevamo che Renzo Bossi, in combutta con la famiglia, in realtà si va a prendere una laurea in Albania, no? La famosa laurea albanese, laurea finta albanese con i soldi nostri. In realtà poi si è venuto a sapere recentemente, cioè nei giorni scorsi, che il signor Renzo Bossi, che noi abbiamo dimenticato, tutti hanno dimenticato dal punto di vista mediatico, ma che ha abbandonato la politica, adesso si dedica all'agricoltura, all'allevamento, eccetera. Ma io però non ne sento, adesso sarò il solito cattivo, cioè, però non sento così la mancanza del legislatore, il giovane Bossi. No, ma nessuno sente la mancanza di Renzo Bossi. No, ma magari qualcuno legittimamente, dico vabbè sì, non fa più politica. No, no, ma nessuno sente la mancanza, questo non c'è dubbio. Dice che è venuto a sapere della laurea dall'indagine, cioè non sapeva di essere laureato prima che si avviasse questa indagine, cosa incredibile. Quando nei mesi successivi sono state pubblicate. A sapere di questa assolutamente corso di laurea con gli esami, i voti, sì, lei come... non sapeva nulla. No. Parenzo, che novità hai tu dall'Austria? È il famoso so di non sapere. Ah, dall'Austria, paese civilissimo l'Austria per ora. Perché che hanno fatto questa cosa straordinaria. Il governo austriaco ha annunciato che per evitare i pellegrinaggi dei neonazisti alla casa di Hitler. Ah, sì, ho letto, sì. Sì, hanno deciso di abbattere questa casa. Notizia straordinaria. Bisogna fare la stessa cosa, ad esempio, nei luoghi del fascismo, ad esempio, lì come dove? Si chiama? Predappio, dove c'è la tomba Predappio. Del Duce lì, a Predappio, bravissimo, a Predappio. Che bisogna fare? Abbattere la tomba, che non ho capito. Abbattere tutto, se no la tomba in sé. Ma andrebbe abbattere tutto cosa? Abbattere tutto, non è possibile. Cioè la casa del Duce andrebbe tolta, andrebbe chiusa la casa del Duce. O la trasformi in un museo in cui vanno solo le scuole, con professori che spiegano cosa è successo. Se non ci vanno questi, quindi con questo. No, però scusa, tu hai detto bravi gli austriaci che abbattono la casa di Hitler. Dunque dovrebbero abbattere la casa del Duce a Predappio, la tomba del Duce. Allora non lo trasformassero in un museo dove ci si va solo per scopi, per spiegare la storia e non per fare quelle commemorazioni, quelle adunate schifose. Fino a qua, adesso, visto che fanno le adunate, andrebbe abbattuta ad oggi, come viene utilizzata. Ma abbattuta, con la ruspa. Si prende la ruspa di Salvini in un momento di pausa. E si abbatte la tomba di Mussolini. Si prende la ruspa di Salvini, che è in uso, si chiede a Salvini, me la puoi prestare un attimo? Io a bordo della ruspa, con altri valorosi compagni e compagni, possiamo offrirci volontari per abbattere la casa di Mussolini fino ad oggi... Ma ragazzi, ma è una cazzata, dai, a meno che non venga trasformata in un museo, Ma io sono contrario anche alle scolaresche con professori che spiegano che cosa è stato. Ma io sono contrario anche a questo, quello che ha fatto l'Austria. Ma che vuol dire abbattere la casa di Hitler? Quello è un abbattere, ma è una cosa storica, è una cosa storica importante, storica, dai. Nonna, che con tutto rispetto per sì, modo di dire. Ma no, ma la casa di Hitler è nato Hitler, ma come fai a togliere la casa dove è nato Hitler? Scusami, il governo austriaco. Ma chi se ne frega? Ma sono due sbaglia, sono due stronzi. Ma chi se ne frega? Voglio dire, è economia per quella città, economia, spendono, vanno là, bevono le birre nei pub. Sul dolore delle persone. Ma dolore, gente che va là, spende, chi se ne frega? Un museo e ci sia l'accesso solo per le scuole, scolaresche, per chi è interessato a capire cosa è stato il fascismo, ma non per andare con la ad oggi, se tu vai lì, trovi questi patetici fascistelli e neonazisti. Tu vorresti chiudere la casa di Mussolini a Predappio, ma sei una cosa incredibile. Strano che non ce l'hanno fatto prima, certamente. Libero salame in libero stato, libero salame in libero stato. E traffico. La zanzara. Noi vogliamo Parenzo che sbrocca. Fottitene del cardiologo, David, fottitene! Comunque ragazzi, io non credo nemmeno che siano veri i profili di chi scrive, per esempio, 20 terroni deceduti, 35 feriti gravi, e questa è la grande notizia che ho appena sentito. 20, quando erano 20, non sono tanti. Chi ha scritto sta roba? Ma un tale che si chiama Giorgio Cutrera. Speriamo che sia aperto un'indagine. Sì, no, quella è stata già aperta, hanno già chiuso il profilo Facebook, ma secondo me non è vera, questi sono tutti fake che girano. 20 non sono tanti, ma sono pur sempre meglio di niente. Cioè, però questa... già uno che si inventa un fake, io ne ho tanti che mi seguono anche su Twitter, già uno che si inventa un fake per scrivere una minchiata simile, sì. Beh, già questo è un malato di mente che andrebbe punito, però curato. Ognuno fa il cazzo che vuole. Ho capito, ma cosa logica, ognuno fa quello che vuole, ma che vuol ma dire? Ma sì, uno... ma ho capito, ma non è vero, non è reale, non è esistente. Cioè, non è uno. Ma certo, anche materialmente lo ha fatto. Cioè, siccome non ha il coraggio di metterci la propria faccia, la propria identità, si inventa una identità fasulla e lo fa attraverso questa. È uno stronzo criminale, non mi posso arrabbiare perché non mi posso arrabbiare, mm-hmm. che va punito. Va bene, dai, Giuliano Perugia, vai, Giuliano. Buonasera Giuseppe, buonasera David. Volevo fare solamente una piccola puntualizzazione per quanto riguarda la dichiarazione che avete detto della Boldrini. Per quanto non sia nelle mie simpatie, anzi tutt'altro, però voglio dire, io essendo un ex donatore di sangue, mi ricordo che quando andavo a donare il sangue al trasfusionale, tra l'altro non all'Avis, la prima cosa che mi chiedevano era doni per qualcuno, cioè c'era la possibilità di donare il sangue per magari per qualcuno malato, parente o qualcuno che comunque sia, tu volevi donare il sangue, aveva bisogno magari del tuo gruppo. Sì, quindi... ma non c'è dubbio su questo, ma nessuno può darsi che sia così, anzi sicuramente è così se lei ce lo racconta. Il problema è che questa qua chiama il centro trasfusionale, il presidente del centro trasfusionale, per dire vorrei che il mio sangue arrivasse lì. Promozione, promozione. No, certo. Però probabilmente comunque è possibile farlo, cioè voglio dare il sangue a, che ne so, a chi ha bisogno, a questa persona che ne ha bisogno, punto. Quindi probabilmente è possibile. Va bene, Salvatore farlo. Milano, vai. Ah, ciao ragazzi, era da tanto che... Dai, dimmi, veloce, vai. Niente, volevo dire che noi siamo razzisti proprio tutti, perché io ho forme di razzismo da parte di... Sì, abbassa la radio, amico mio, abbassa la radio, dai, su, forza. Dai, amico mio, dai, sì. Prima che ti mandi a fare in culo, dai, Salvatore. Grazie a te. Vai, allora, dimmi. Stavo dicendo che io ho forme di razzismo da parte dei miei parenti che sono in meridione e io sono a Milano a lavorare. Ma che c'entra? Qual è la forma di razzismo? Di che parli? Di cosa parli? Perché loro sono razzisti nei miei confronti. Perché? Perché sarebbero razzisti? Non ho capito. Perché per loro gli dà fastidio che sono a ma Milano. Ma quello non è razzismo, è semplicemente il fatto che gli stai su il fatto che gli stai su sì, ma gli stai sui coglioni e basta. Sta sui coglioni pure a me, figurati. Cioè, gli stai sui coglioni e basta, il razzismo non c'entra niente, Salvatore, non hai capito? No? Il razzismo è un'altra cosa, gli stai sui coglioni. Stai sui coglioni ai tuoi parenti, questo è il punto. Ah, vabbè, allora questa è sempre forma di razzismo, perché può essere... Ma tu, sei ma tu lo sai che sei bacato in testa, sì? Tu sai di essere bacato in testa. No, è importante saperlo, essere bacato in testa, uno lo sa, sono bacato in testa. Cioè, ma vabbè, quale razzismo? Me, che c'entra razzismo? Stai sui coglioni ai tuoi. Cioè, mettitelo in testa. Stai sulle palle ai tuoi parenti. Chiaro? Allora non sono razzisti. No, non sono razzisti. Semplicemente stai sui coglioni, cioè, punto. Cioè, cos'è che ti direbbero poi? Cos'è che ti direbbero? Spiegami. Praticamente loro puntualizzano sempre che a Milano? Berlusconi, tutte queste cose qui. Cosa c'entra il razzismo? Siano tutti della Lega. E quindi è una forma di razzismo. Loro sono prevenuti. Sono prevenuti. A Milano, ma a parte che sono degli imbecilli se pensano questa cosa qua. Loro sono imbecilli e probabilmente tu stai sui coglioni ai tuoi genitori, ai tuoi parenti che sono degli imbecilli, evidentemente, no? Perché se pensano che il nord è tutto Lega, Berlusconi... Ammetti, i miei parenti sono degli imbecilli. Bene. Loro hanno bisogno di chiedere sempre qualcosa a qualcuno per poter ottenere... Scusa, però a noi, io mi sovviene una cosa, Parenzo, a noi che cazzo ce ne frega dei parenti di cosa? Per carità, no, ogni storia ha la sua importanza, eccetera. Però dei tuoi parenti a noi che cosa ce ne frega? Nulla, meno di nulla. Salvatore, cosa ce ne frega dei tuoi parenti? Cioè delle beghe che avete tra te, che tu hai con i tuoi genitori, eccetera. Ma a noi cosa ce ne frega? Vabbè. Lei sembra normale. Per me sono razzisti. Per me sono ancora con razzismo. Chiama. Perché loro dicono sempre Milano, voi siete a Milano. Cioè, non è razzismo. Sono dei poveracci, sono dei minus abens. Cioè, hai dei parenti, dei genitori che hanno la testa bacata come te, peraltro, che ci chiami per raccontarci questa minchiata familiare di cui non ce ne può fregare di meno. Però è interessante perché anche da questo capiamo che c'è. L'umore delle persone, anche il cervello delle persone, il tuo e quello dei tuoi. Allora, per me può sembrare... Dove abitano i tuoi? Salvatore, dove abitano i tuoi? A Salerno. Ma che rapporti hai con i tuoi parenti? No, ma buoni, solo che il problema è che ogni volta che si prova a parlare di politica o un qualcosa che... E che fanno? E loro incominciano a parlare di Berlusconi dicendo che... Ma cosa c'entra questo col razzismo? Spiegami. E loro incominciano con una forma di razzismo verso chi è al nord a lavorare. Non c'è niente da fare, Parenzo, non c'è niente da fare. No, puoi spiegare tante cose. È inguaribile, non c'è problema. Non c'è niente da fare. Purtroppo non è... Roberto da Padova, dai. È fatto così. Dimmi. Ciao Roberto da Padova. Sì, ascolta, l'abbiamo detto Roberto da Padova. Io chiamavo per il discorso dell'abbattimento della casa di Hitler. Della casa di Hitler, vogliono abbattere la casa di Hitler. La casa di Hitler, ma per la stessa logica bisognerebbe abbattere anche il mausoleo di Stalin, che non è stato certamente un santo. Ma io non lo so, comunque hai perfettamente ragione. Abbattere la casa di Hitler semplicemente perché dei neonazisti vanno lì a rendere omaggio a Hitler è una puttanata spaventosa, perché non serve assolutamente. Il problema è rendere questi posti del ricordo e non dell'orgoglio neonazista. Ma quello che c'entra, ognuno ci va con lo spirito. Allora, se quella casa venisse trasformata in un museo permanente in cui si mostra, ma adesso vuoi dire agli altri che cosa fare? Cioè, vuoi dire agli altri che cosa fare? No, io sto commentando una notizia che è uscita oggi in cui ho letto che il governo austriaco, non italiano, non fatto da comunisti, il governo austriaco, siccome è stufo per fortuna dei pellegrinaggi di neonazi, pazienza, ha deciso di abbattere. Io dico bene, abbattiamo pure la casa allora ho detto abbattiamo pure, perché siccome fino ad oggi quella roba lì è tutte le case del Duce in giro per l'Italia, tutte ne avrà una, andiamo a Predappio. Siccome oggi Predappio è un luogo di incontro e commemorazione del fascista, pazienza, chi se ne frega, pazienza un corno, ma chi se ne frega, quello in un museo in cui vanno le scuole, vanno i professori a spiegare, oppure se vanno quel si va con la ruspa, ma quale ruspa? Economia, gente che va lì a Predappio a spendere, ottimo sindaco del PD che vuole fare pure il museo sul fascismo, lui vuole vuole abbattere nessuna casa del Duce, no, lui dice la cosa giusta, fare un museo, ma non vuole tutti questi, ma non vuole, non è che può decidere lui, ma quando ma lui ad esempio vuole evitare, io lo sai che ce l'ho, sì, il vino con sopra la cosa di Mussolini, me l'ha regalato un pazzo di Perugia, ma non è che possiamo discutere, tu non sei una persona normale, il vino con le epigrafe sopra di Mussolini, e ce n'ho pure uno col vino di Hitler, divertentissimo. Pronto Casa Pacciani? Ah no, è la Zanzara? Vabbè dai, va bene lo stesso. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. C'ha ragione Feltri. Non siamo dei razzisti, nessun italiano è razzista. Quando capita che un italiano litiga con un nero e succede come a Fermo, allora tutta l'Italia è razzista. Quando invece qualcuno di quelli lì che sono di Allah ci sgozzano, ammazzano un italiano, ah no, andiamo a controllare, è lui da solo, non è che tutti gli islamici sono così, prendiamoli uno a uno, prendiamo il suo caso. Barbuni a Laura! Red Ragazzi, non ci potevo credere quando ho letto questa notizia. Cioè, sembra, poi non è che la cosiddetta casta esiste solo in Italia, Il parrucchiere di Hollande, di Hollande, a parte il fatto stesso che il presidente della Francia abbia un parrucchiere, è una cosa incredibile. Si chiama Olivier, il coiffeur Olivier. Pare che oltre al suo stipendio, tra benefit, viaggio col presidente anche all'estero, eccetera, prenda 10.000 euro al mese. Cioè, il parrucchiere di Hollande. Poi che cazzo serve il parrucchiere di Hollande? Me lo spieghi? Ma l'hai visto bene Mamma in faccia? Mia. Signor Hollande, l'hai visto in faccia? Certo che l'ho visto. Non è che ha bisogno del coiffeur, già di suo, insomma. No, già... non è bellino proprio. Ma no, ma è terribile, è orrendo, è un mostro Hollande. No, non me ne frega niente. No, ma non è quello il punto. Ma non ha bisogno, pagare. Non ha bisogno di grandi rispolverate, avrebbe bisogno di un'altra cosa, il signor Hollande. Cioè, ma a parte questo, ma comunque piace molto alle donne, questo te lo voglio dire. Sì, lo so, in Francia, gli uomini di potere. Piace moltissimo, come ha detto Casini con la ex moglie lì, poi ha fatto sì, con la Vespa, ha fatto dei bordelli allucinanti. Sì, sta pure con una, se sta ancora con quella, sta con una che è una gran bella figa, diciamo una, la verità. Beh, una bella signora, una, insomma, bella una ragazza, è un'attrice piacente, attrice, rispetto a lui, diciamo. È una specie di rispetto di... a lui. Esatto, no, ma 10.000 euro al mese. 10.000 euro al mese del parrucchiere, incredibile. Ora io voglio poi difendere il signor Pellè. Conosci il signor Pellè? Tu? Come no? Pellè è quello che fa i balletti, fa i balletti. Vai a fare il culo, quello è Bolle. Che cazzo c'entra? No, no, ah, quello è balletti, sì. No, quello è Zaza, è un altro, ma non capisci proprio nulla. Ah, cioè, Pellè è quello che ha fatto il gesto al portiere della Germania. Sì, sì, signor Zaza. Pellè ha avuto un contratto in Cina, come sapete, molti di voi lo sanno, 38 milioni in 2 anni e mezzo. No, è andato a giocare in una squadra cinese. Vabbè, chi se ne frega, cazzi suoi, uno 38 dice. 38 no. milioni? In 2 anni e mezzo, 38 milioni. Lo pagano i cinesi, però. Lo pagano i cinesi. Vabbè, beh, infatti, frega. Uno beato può dire. Lui. Ma esatto. Lui che ha venduto le sue gambe alla Cina, bravo. Esatto, 2 anni e mezzo. Facciamo la Zanzara in Cina anche noi, ci daranno 38 milioni. Ecco, questa in può Cina, essere un'idea interessante. Sì, io può parlo essere... anche, imparo anche il cinese. No, ma mandarino. Tu lo sai che a me dei soldi non me ne frega un cazzo. Per cui beh, non ma al di là di quello, ma vado in Cina. Però, certo, 38 milioni è difficile beh, dire di no. Amico mio, adesso. 38 milioni è difficile. Però, senti questo. Allora, c'è un tizio che fa uno sport chiamato Taekwondo. Sai che cos'è il Taekwondo? Taekwondo, come no, vale tutto. È uno sport. Facevo un mio amico, l'avvocato Carlo Cianflore, se non per fare nomi, un avvocato di Padova molto bravo. Carlo senza Cianflore, fare nomi, sempre senza fare nomi, sì. Sì, nessun nome. E lui faceva sempre Taekwondo, e che, dove valeva tutto praticamente, una specie di lotta sì. in cui valgono pugni, calci. No, vabbè. Certo. No, allora, questo qua si chiama Carlo Molfetta, è un campione olimpico di Taekwondo. Ecco. Perché alle Olimpiadi ormai c'è qualsiasi sport, tra cui anche il Taekwondo. Va bene, io non voglio dire nulla con te Taekwondo, sennò poi cominciano ad attaccarmi, comincia a denigrare gli sport, eccetera. Benissimo, il Taekwondo va bene, va tutto bene. Questo tizio, non so quanto seriamente o quanto per giocare, ma sembra seriamente, ha scritto questo. Si chiama Carlo Molfetta, tra l'altro. È pugliese come Pellè. Io vinco le Olimpiadi e sono un pirla. Pellè è un pirla e prenderà 16 milioni di euro l'anno. Ergo, nella vita, meglio essere un pirla. Che schifo. Ora dico, amico mio, tu non è che fai il calciatore, fai il taekwondo. Renditi conto, il taekwondo. E nessuno ti pagherà mai un euro per fare il taekwondo. Se lo fai, lo fai per passione. Non puoi rompere i coglioni a quello. Sì, certo, non puoi rompere i coglioni a quello perché giustamente mette a frutto la sua popolarità di questo mese o quello che ha fatto negli ultimi anni e ha avuto il culo di farsi dare 38 milioni in 2 anni e mezzo dai cinesi. Ha fatto benissimo. Sarà pure un pirla, come dici tu, perché ha sbagliato il rigore, ha fatto il gesto al portiere della Germania, quello che vuoi. Ma intanto c'ha 38 milioni in 2 anni e mezzo. Tu fai il taekwondo. Che se io spiego in giro che cos'è il taekwondo, giustamente la gente non lo sa. Quello fa il calciatore di... calciatore della nazionale. Chiaro? Per cui non rompere i coglioni, non è questione di pirla o non pirla. Tiro del culo che quello guadagna dei soldi, benissimo, ma quello è tutto tranne che un pirla, eh. Allora, Andrea da Udine, vai Andrea. Ciao, buonasera. Dimmi, dimmi, dimmi. Una sola considerazione su quello che aveva detto Parenzo in merito alla demolizione delle case di Mussolini. Sì, vabbè, ma è un delirio, eccetera. Delirio parenziano di stasera, allora, è quello che bisogna abbattere la casa di Mussolini a predare. Una sola osservazione. Gli dà fastidio che esistano i simboli della storia. Esistono i simboli della storia, anche quella più nefasta. Gli dà fastidio che quei simboli diventano meta per... vabbè, e che vuoi fare? Impedire alla gente di essere... Impedire alla gente di andare a Predappio? Non puoi impedire. Fascisti, certo. Ma non puoi impedire alla gente di andare a Predappio? Io posso trasformare quello in un grande museo. Oddio, Agosto, ma non puoi... Ma non puoi... Tu sei veramente per la rieducazione delle persone. Bravo. Tu sei... Ma è una cosa comunista. È un termine staliniano. Io sono per educare le persone. Ma peggio ancora. Peggio ancora. Educarle al mio verbo, perché il mio verbo non interessa. Ma però fammi sentire Andrea. Le scuole vanno a Predappio, vanno con ma nessuno preparati. Ci va a scuole, le scuole non vanno a Predappio. Andrea, appunto, ci vanno i nostalgici, quindi se ci vanno i nostalgici a battere tutto. Vabbè, Andrea, dai. Vabbè. Allora? Dicevo, Catone in Senato disse Cartago dell'Enda Est e tutti ci ricordiamo di Cartagine, ci ricordiamo di quello sì, che... Sì, però dice. Non la fare troppo quindi complessa, dai. No, distruggere non aiuta, cioè distruggere forse rinforza la memoria. Quindi sarebbe il caso, e qui condivido con Parenzo, che si parli, si tratti di determinati argomenti, ma non di distruggere. La distruzione è una sciocchezza grassa e che solo Parenzo poteva dire. Mm. Vabbè, Mario da Roma, dai. Mario. Sì, pronto. Dimmi. Che è la zanzara? Cosani. Che è la zanzara? Sì, è la zanzara, allora, Mario. Io volevo sapere sulla Boldrini se è vero, io sono di Iesi, sono tassista sei a Roma. Sei di Iesi, sei tassista a Roma di Iesi, che fai a Roma a fare tassista, che sei abusivo? No, io sono tassista da 40 anni a Roma, 48 anni. Ah, però pensavo fosse abusivo, pensavo fosse abusivo, ti denunciavo subito, Subito, no, io ti denuncio a te quando fai le parolacce. Ma devo tu chiudere la radio quando ho i bambini dentro, devo chiudere bravo, la radio. Bravo, bravo, bravo, fai bene, però poi riaccendi... Riaccendi. Io voglio sentire. Sì, io ma togli viva voce, togli questo cazzo di viva voce, amico mio tassista. Dai, su, Mario, che sei privilegiato rispetto agli altri perché fai il tassista, dai. Senti, ti voglio dire una cosa. Io ho fatto più di 30 anni donatore di sangue. Non ho mai saputo chi va il sangue ed è vietato. Ma certo, ma è normale, ma quello di prima ha detto che uno può dare, può dire io voglio donare il sangue, che ne so, per il Congo, per sto cosa. Quella è un'altra cosa. Sì. Quella è un'altra cosa, quando c'è uno che si opera, che va là ne devi portare 3 o 4, 6, 7, però non va quello sangue, quello va all'Avis. Sì, sì, no, Mario, ma dunque che vuoi dire sulla Boldrini? Che vuoi dire sulla Boldrini? Non ho capito. Io sulla Boldrini, quello che volevo dire, è vero o non è vero che lei ha telefonato, il mio sangue deve andare a quelli? Ma c'è, guarda, ti faccio sentire quello del centro trasfusionale, guarda, risentiamolo, centro trasfusionale là di Barletta. Aspetta Mario, aspetta, ti faccio risentire questa cosa, che è vero, è tutto confermato, ha chiamato lei dicendo voglio che il mio sangue arrivi in Puglia, senti. Si ha chiamato proprio 5 minuti fa, che stava donando a Roma, mi ha chiesto se ci fosse stata la possibilità di far arrivare il suo sangue da Roma qua in Puglia. Io l'ho ringraziata, però ho detto che tranquillamente i cittadini pugliesi si stanno adoperando a queste necessità trasfusionali, però mi ha fatto molto piacere che anche lei stava a Roma al servizio trasfusionale. Capito? Oh, capito o no, Mario? Mario? Sì, dimmi. Ma hai capito o no? È tutto vero? È vero, però lei non può farlo questo. Questa è pubblicità. A me lo dici? Vabbè, Michele da Napoli. Ciao, Mario, ti saluto. Vai, Michele da Napoli, dai, Michele. Sì, salve, Cruciani. Dimmi. Senti? Sì, allora, sì, volevo dimmi, fare un ragionamento con Parenzo. Un ragionamento con Parenzo, vai, dimmi. Ok, allora ti volevo chiedere, secondo me, Mancini, Parenzo... se vedeva un nero americano per strada, non gli diceva scimmia africana, non gli buttava le noccioline. È giusto, se, mi dai ragione. Ma di che stai parlando, scusa? Dei fatti di Fermo. Sì, ma di che stai parlando? Di stai sì, parlando se vedeva un nero americano? Che cazzo vuol dire? C'è una differenza tra razzismo e xenofobia che spesso si confondono. Secondo me, se vedeva se non erano vestiti ad Africa, cioè diciamo, se non erano riconoscibili come africani. Vabbè, ma cosa vuoi dire con questo? Non ho capito. Voglio dire che Parenzo, quando per esempio, quando bisticcia con un napoletano e gli dice, gli fa la pantomima della pomarola in coppa, oppure gli scimmiotta il dialetto, è una cosa simile a quell'insulto verbale che ha fatto Mancini, quindi secondo me è un po' xenofobo anche lui. Ma non c'entra niente, dai, su, non c'entra nulla. Beh, Parenzo, rispondi tu, dai, a questo. No, voglio dire, intanto la pregherei di mettere in ordine un verbo, un soggetto, verbo e complemento oggetto. Questo è importante, sì, è importante. Questa è la prima cosa, io non ho capito niente. Cosa c'entra quando io gioco con qualche ascoltatore grottesco e mi diverto a sbeffeggiare? Con quello cosa che insulta quella per strada, un cazzo. Con quello che niente, quindi mi dispiace, arrivederci. Michele, hai capito? Non c'entra una mazza. E vada anche a quel paese se può. Michele? No, io lo rispetto e rispetto la sua opinione, semplicemente volevo chiedere la sua opinione in mezzo a questo. Ma la sua opinione di che? Di cosa? Di cosa? Opinione di che? Divento vado pazzo. Vabbè, vado. Secondo lui non è xenofobo, secondo me un po' lo è. Vabbè, questo d'accordo, questo è tutto. Ah, no, volevo dirti però un caso strano. Ieri notte, a mezzanotte qualcosa, sì, ti ho anche telefonato a un certo punto, sì, mi hanno chiamato alcuni amici di una radio, Radio Gol, mi pare si chiami, sì, 9.0. Sì. E dopo me lo racconti, aspetta che c'è la pubblicità. Fermo. Sì. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Lorenzo, ascolta qua, Giulio Cesare, cosa vogliamo fare? Quelle due tre domus che sono rimaste, abbattiamo anche quelle, no? Perché sicuramente avrà commesso qualche delittuccio. Ah, aspetta, non c'erano i comunisti, è vero. Parenzo, ascolta qua, Giulio Cesare, cosa vogliamo fare? Quelle due tre domus che sono rimaste, abbattiamo anche quelle, no? Perché sicuramente avrà commesso qualche delittuccio. Ah, aspetta, non c'erano i comunisti, è vero. No, l'ho mandato due volte per farti capire bene, per farti capire per bene. Per capire bene che non ha capito niente. No, ma ha perfettamente ragione, ha perfettamente ragione. Cosa c'entra Giulio Cesare col fascismo? Perfettamente ragione. Ma per me era una stupidaggine, ma una cosa più stupida non poteva dire. Cosa c'entra Giulio Cesare con il razzismo e col fascismo? Niente. No, per dire che se uno comincia ad abbattere... Per dire che non c'è gente che fa pellegrinaggi per Giulio Cesare, poi Giulio Cesare è stato un criminale. Stiamo parlando di Mussolini, stiamo parlando dell'Austria. In Austria il governo austriaco, non comunisti... Tu hai detto che bisogna abbattere la casa di Mussolini a Predappio. Ho detto che se quel luogo lì, come finora è stato un luogo di ritrovo. Allora abbattiamo la abbattiamo le cose di Predappio, dai. La abbattiamo. Ma cambiamo nome, cambiamo nome a Predappio, magari. Cambiamo nome a Predappio. Beh, potrebbe anche essere un'idea anche questa, ma no. Cioè, ma cambiare nome a Predappio, cioè siccome si chiama Predappio e Predappio è, come dire, riconosciuto. No, ma quello chiamiamola città della resistenza. Città della resistenza. Ma non è potrebbe così. Essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. Il Vittoriale di D'Annunzio. Chiamiamola come nome. Scusa, no, si potrebbe si potrebbe chiamare con il nome di chi ha ucciso Piazzale Loreto. Cioè, invece di Loreto, invece di Predappio, Loreto. No, perché, ma che c'entra? È un luogo storico, è un luogo storico. Non è un luogo di neofascisti che vanno a rimpiangere. Ma chi se ne morto, frega? Ma capito? Chi se ne frega? Questa è la differenza sostanziale. Ah. Per cui se quel posto diventasse un museo a cielo aperto in cui si spiega, si racconta con ma che spiega, racconta? Non con quattro idioti in camicia nera che vanno lì per ricordare Silvia da Parma, Silvia da Parma. Ecco, dai, Silvia da Parma. Si chiama Silvia da Parma. Vai, Silvia, dimmi. Ah, buonasera, dimmi. Io vorrei parlare con Parenzo. Sì, ma Parenzo è qui Parenzo, vai. Ecco, io volevo dire semplicemente una cosa. Io non voglio fare commenti sul fatto di Ferro, perché sarà la giustizia che poi deciderà. Non vuoi fare commenti, allora che cosa hai chiamato a fare se non vuoi fare commenti? No, aspetti un attimo, mi lasci finire, poi vedrà. Dimmi, voglio Silvia, dire una cosa. Parenzo, spesso e volentieri, ad esempio, dà delle scimmie ai leghisti, a chi telefona a Radio Padania. Dipende da cosa dicono, naturalmente. Guardi, no? comunque che io non sono. Non sono comunque che. Lui, non sono che, non abbiamo scimmia... sentito. Non sono che. Se ha il telefono che funziona male, non è colpa nostra. Cioè, Silvia, usi un telefono più moderno. Dove ha chiamato? Da numero fisso? Dove ha chiamato? Silvia? No, da un cellulare. Evidentemente c'è qualcuno che la chiama, perché non si sente una mazza. Allora, Silvia, qual è il problema? Il problema, dico, che Parenzo dovrebbe limitarsi a dire improperi contro le persone. Se uno non la pensa a come lui, è sempre imbecille, stupido, è insano, eccetera eccetera. Insano. La parola scimmia, sì, la spesso in bocca, spesso e volentieri, per cui per cortesia si dia una calmata. No, diciamo questo, diciamo che il 99 però è razzista anche lui nei confronti dei leghisti. No, non c'è razzismo, io disprezzo gli stupidi. Diciamo che il 99.9% di chi chiama, prendo Radio Padania come campione, insomma, dico il 99.9%. Non è vero, ma non è vero, non è così. Per essere veramente generoso, 99.9. Lì la subspecie umana si rappresenta quotidianamente. Lì il rende conto nella sua essere altezzoso, nella no, sua non romanza, è altezzoso purtroppo, guardi. Ma si rende chi conto chiama? Che lei sta facendo esattamente come ha fatto quel tizio a Fermo verso la lei ha mai beh, sentito? è un po' sì. Niente. No, scusi, sono cose diverse, ma un po' sì. Lei ha mai sentito Radio Padania, cara signora? Ma no, io l'ho sentita da voi. Lei reputa che quello fa ridere, lei quello che ha sentito che mi fa ridere, però brava, posso dire brava, che sono stupidi, cioè voglio dire chissà cosa pensano, che razza di gente è, dirlo così è un conto, dire scimmie, ma in col tono suo di arroganza, certo, con quale tono devo dire scimmie? Allora, a un certo punto gente involuta, la differenza gente involuta tra il suo scimmia e scimmia detto, ma quella non diciamo signora. Stupidaggine, ho detto semplicemente che il 99.9%, ma non c'è, adesso stai allargando. Lui, lei ti contesta il fatto di usare la parola scimmia con alcuni scimmie ascoltatori. Nel senso, certo, di ascoltatori di Radio Padania involuti. Ma guarda che le scimmie non sono così involute, però. No, ho detto sì, però l'evoluzione della specie si è fermata alla scimmia a un certo punto. Poi è arrivato l'uomo. Quelli che chiamano Radio Padania sono la dimostrazione che c'è una evoluzione che si è bloccata a un certo punto. Va bene, no? Sergio Caserta, vai, Sergio. Capito. Sergio. Sergio. Sera. Dimmi. Niente, se uno deve dire qualcosa dice se niente. Se non vuol dire niente, bene così, meglio, andiamo avanti. Vai, dimmi. Allora, vorrei dire, se è possibile, il fatto di Fermo. Il fatto di Fermo, bene, fino a qua ci siamo. Sì, quel ragazzo Mancini che purtroppo per fatalità ha colpito ed è morto, no? Che sappiamo come no, non è morto, è morto l'altro, non è Mancini che è morto. Sì, è morto il nigeriano. Sì, allora? Vabbè, fino a qua ci siamo, sappiamo tutto. Sì. Vai. Volevo chiedere come mai deve evolvere i suoi beni alla famiglia. Ma questo l'ha deciso lui, mica l'ho deciso io, non è che l'hanno obbligato. Per qual è il motivo che... Ma che cazzo ne so, per farsi bello, per dire, per cercare perdono, perché lo sente, non lo so. Non è lo Stato che deve fare queste cose. Senti Sergio, se uno vuole dare i suoi beni ad una persona che ha ucciso, in sostanza, anche se lui dice di avere solamente una responsabilità morale, può fare quello che vuole, chi se ne frega, cioè faccia quello che vuole, non è che lo Stato avrà clemenza se poi viene dimostrato. Sì, però in cuor mio ha messo male a pensare che lui deve evolvere, che non mi tocca sta cosa perché non sono beni miei. Però sto male su sta cosa. Ci stai male? Sì, perché lui deve evolvere il bene. Quando poi è successo che quella ragazza rumena lì buttò l'ombrello nell'occhio, lì è stata un'altra fatalità, e allora? Che quella poteva morire, e tutto è andato bene, non è stata fatta tutta questa pubblicità, non è stata fatta tutta questa... Vabbè, arrivederci. Ambrogio da Mantova, dai. Pronto? Sì, vai, sì, dimmi. Buonasera, io volevo, per cortesia, per fortuna che parlo con voi, con Parenzo. Non ho capito, scusa, eccomi, volevi qua fare cosa? Non ho capito, Ambrogio. Volevo dire due parole a questo signor Parenzo. Sì, ma puoi dire quello che ascoltarla. Puoi dire quello che vuoi, basta che ti sbrighi e soprattutto non Parenzo fai... è pagato allora, per ascoltare tutti, anche lei. Eccoci. Perfetto, infatti fanno male a pagarle perché lei è un coglione comunque. Sì. Vabbè, dopo è un coglione. Ogni volta che c'è un insulto sale il cachet. Perfetto, perfetto. Perché è un coglione? Perché lui non può dire tutte le stronzate che dice. Per la storia di Mussolini, per esempio, quella lì è la storia. E le scuole devono andare e raccontare quello che è successo. Vabbè, ma non ho capito. Ambrogio, andiamo alla parola coglione. Perché chiami coglione Parenzo? Perché Parenzo è un coglione. Vabbè, ma questo l'hai detto, già l'hai già detto, ti sto spiegando. Perché dici perfetto coglione? Non restare sulla stessa cosa, vai. Perfetto, perché lui intanto non c'è niente di perfetto. Tirare via le nomi delle strade a Bologna che sono Leningrad, Stalingrad, che rappresentano il comunismo, che sì, hanno fatto più di 100 milioni di morti. Giusto, giusto. E questo signore qua non lo sa, forse. No, lo sa benissimo. No, lo so benissimo, ma fa finta di non saperlo. Beh sì, perché a questo punto se bisogna togliere, abbattere il comune di Predappio, non so che cosa, abbattere la casa di Mussolini, io abbattere la tomba. Ho detto che quel posto va trasformato in un museo a cielo aperto e non in un luogo delle adunate neofasciste. Tu hai detto che la casa di Mussolini andrebbe abbattuta semplicemente perché è frequentata. Ma neanche quella dell'Hitler non era da battere. Ma non bisogna abbattere niente, sennò facciamo come i talebani. Dai ragazzi, ecco, su. Perché non si preoccupa di togliere i nomi di Stalingrad a Bologna e di tutti i nomi che sono in Italia? Di ho capito, Ambrogio. Giancarlo da Roma, vai. Giancarlo, dimmi. Volevo dire soltanto una cosa. Rispetto alla Boldrini, secondo me è stato un intervento un po' sbagliato perché... Il costo per portare questo sangue in quel paese, uno... Non lo so il costo, ma è una follia secondo me chiamare uno del centro trasfusionale e dire vorrei che il mio sangue andasse lì. Ma che cazzo serve? È una cosa solo propagandista, è una vergogna, dai. Avrebbe fatto più bella figura facendo un appello dicendo alle persone della Puglia di dare il sangue. Ma l'avrà già fatto, l'hanno fatto tutti, figuriamoci, l'avrà già fatto. Poi ha chiamato quello dicendo vorrei che il mio sangue arrivasse lì. E dai, su. E poi dico un'altra cosa e basta. Secondo me la libertà finisce dove finisce il buonsenso. Che vuol dire? Chi lo decide qual è il buonsenso o no? Scusa. Il buonsenso, ad esempio, lo decidi faccio tu. Un esempio, il sentire trasmissioni dove continuamente è un'offesa l'uno con l'altro, mi manca il buonsenso. Ma questo lo dici tu che è buonsenso? Cioè, chi lo decide qual è il buonsenso? Non ho capito. Allora ognuno può fare quello che crede. No, c'è la legge poi, ci sono le leggi, ci sono i reati, ci sono i tribunali, eccetera. Però se io mandassi, vede, una volta lei ha detto che Sgarbi non paga perché non c'è interesse per niente, una cosa del genere. Non lo so, ma quelli sono cazzi suoi, che c'è? No? Ma sono affari suoi perché riesce a evitare di pagare le Equitalio o altre cose. Vado, offendono qualsiasi persona, probabilmente andrei per le piste. Comunque perché lei non ha gli avvocati giusti e perché... sono disoccupato, figuriamoci che io possa... Ma infatti non offendi nessuno... Comunque, poi perché dovresti offendere qualcuno? Non è che offendi qualcuno, vedo qualcuno pubblicamente, non hai trasmissioni, non sei ospite di trasmissioni, che cazzo vuol dire? Lo so. Perché vabbè Giancarlo, ti ringrazio, ciao. Viva Goldrake, che ammazza i vegani! La Zanzara. Allora ragazzi, il professore Parenzo, questo è per te, il professore avvocato Carlo Taormina, con cui hai ormai praticamente un conflitto aperto. Ma non per colpa mia, in realtà io dico quello che penso, lui si inalbera molto. Vabbè, comunque ha scritto poche ore fa, segnalo queste precisazioni decisive e fondamentali a Cruciani della Zanzara, notoriamente persona intelligente ed intellettualmente onesta, e quindi capace di riconoscere i suoi errori, a differenza della spalla di quarta fila che lo affianca immeritatamente nella trasmissione radiofonica più importante d'Italia. Cruciani, se è Cruciani, mi dovrebbe chiamare per chiedermi scusa. La moglie del nigeriano morto a Fermo starebbe per essere denunziata per calunnia, avendo dato una ricostruzione dei fatti falsa e smentita da testimonianze ritenute attendibili dalla procura. Ma che c'è? E alla procura, retta da un grande magistrato come Seccia, continua a chiedere indagini sull'impero economico di Don Albanese. Spero di poter dare un contributo. Lui dice, ma questo è vero, che ci sarebbero diversi verbali, diverse testimonianze contro la vedova di Emmanuel CD, cioè che potrebbe essere addirittura accusata per calunnia, capito? Vabbè, questo siccome lo dice io dovrei chiedere scusa, adesso io una telefonata a Carletto nostro gliela farei. Fagliela, speriamo che non si inabbia. Però non lo fare incazzare come al solito, sennò succede il solito bordello. No, io non dico niente, se mi fai arrabbiare, però glielo dico. Vabbè, dai, ragazzi, telefonatemi a Carletto, dai. Pronto? Avvocato? Chi è? Sono Cruciani, ciao. Oi, ciao, come stai? Ma ho letto bene, ho letto qui che ti devo chiedere scusa. Perché ti devo chiedere scusa? Scusami. Beh, mi devi chiedere scusa perché, come vedi, il tema forte della vicenda di Fermo è proprio la legittima difesa sulla quale tu mi hai... No, è quello che ho detto io sin dall'inizio. Io ho detto bisogna andare molto cauti qui perché c'è una testimone, eccetera, eccetera. Sei tu che hai scritto che è sicuramente legittima difesa. Io mica so che è legittima. Io dico che sulla base dei dati che sono presenti abbiamo la disponibilità di forti elementi che dimostrano la legittima difesa. Ho capito, d'accordo, cioè pare che la vedova potrebbe essere addirittura accusata di calunnia, cioè sì. Accusala tu di calunnia direttamente allora. No, io non accuso nessuno di calunnia, io faccio le mie osservazioni, mio caro. Non no, ma ho capito, questo. Tu hai dato per certo che l'immigrato era violento. Io continuo a dare per certo, che se gli elementi con i quali ci dobbiamo confrontare sono quelli che vengono esibiti dagli organi di stampa, tutti virgolettati, e quindi che sicuramente dispongono... è legittima difesa. Per me, sicuramente è legittima difesa. E poi l'immigrato violento? L'immigrato violento è una conseguenza. Se la reazione. Tu hai detto il solito, il solito immigrato violento. Comunque, questo è uno dei tanti immigrati, di moltissimi immigrati violenti. Se è vero. Hai statistiche in mano? Ma ci sono statistiche dell'ufficio studi Taormina? Cosa c'è? Un ufficio studi Taormina? Come c'è l'ufficio della Confindustria, c'è l'ufficio studi Taormina. Allora, però devo dire una cosa, che sugli indagati pare che... Da recenti statistiche, pare che l'ufficio studi di Carlo Taormina... In proporzione il numero di indagati extracomunitari... C'è il professor Carlo Taormina, il quale ha 40 anni di esperienza e 40 anni di cattedra, in base ai quali fa queste valutazioni. Lei è un povero imbecille, oltre che stupido personaggio, quindi pensi allo studio scientifico, l'ufficio studi della Confindustria di Banca in Italia, c'è l'ufficio studi Carlo Taormina. E mica tutti sono stronzi come lei, sono stronzi e ignoranti come lei, vabbè, ha capito studi. Qual è il problema? Carlo Taormina, dopo Banca Italia. No, c'è un avvocato con 40 anni di esperienza e 30 anni di cattedra. Studi lei è un imbecille. Mamma mia. Parenzo, bisogna dire la verità. Finito? Allora, bisogna dire la verità. C'è una recente statistica che dice che Aspetta, Carlo, alla vicenda specifica. Carlo, sono i dati. Poi se vengono fuori dati diversi è un altro discorso. Allora, aspetta, Carlo, scusa un attimo. Allora, c'è una recente statistica. Metti un po' più vicino però, al micro. Scusami, non mi far parlare con quelli. No, aspetta, sto parlando. Ma come si permette? Aspetta, non mi permetto. Lei è un imbecille. Ma come si permette? Imbecille. Ma come mi si permette? Esattamente in risposta di quello che lei dice nei miei confronti. Quindi non mi rompa i coglioni, per cortesia, e la smetta. Ma come si permette? Sono costretto a non parlare nemmeno con una persona che è intelligente. Aspetta. Come Io devo dire una cosa, che Carlo forse ha sbagliato perché ha dato per certe alcune cose, però sin dall'inizio io ho messo in dubbio la versione della vedova. A me non me ne frega niente, nera, bianca, razzismo, eccetera. Io fin dall'inizio ho messo in dubbio le parole della vedova. Ma qualcuno ha urlato a questa cosa. E io lo dico con maggiore certezza, qual è il problema? No, allora c'è un'altra cosa, la statistica delle persone immigrati indagati è proporzionalmente maggiore, indagati per episodi di reati, rispetto agli italiani, diciamo. Questo, Questo è un dato certo, ci sono dei dati. Per chiari. Quali reati? Ma nessuno va ai funerali dei cittadini italiani che vengono massacrati nelle ville da 4-5 persone che vanno tutte insieme e uccidono in maniera barbara e schifosa. Nessuno ci va perché quelli sono italiani. Ma che dice? Ma perché? Lo dico io. No, scusi, chi parla? Perché io guardi. Io, ma lo dico io chi cazzo, è? Con quel testa di cazzo di Parenzo. Non voglio è parlare. È un po' nervoso l'avvocato professore. È un po' nervosetto. Io sono tranquillissimo. Lei è un po' nervoso. Scusa, professore. Ma guardi, si vede. Lei è sgraziato. Non ha forse qualche parcella. È una persona nervosetto, mi pare. Lei invece è un po' sgraziato. È nervosetto e sgraziato il professore. Che c'è? No, io so bene. C'è stata qualche condanna con sentenza definitiva di qualche suo assistito? Che c'è? Io so benissimo, Ma l'importante è non sentire un testa di cazzo come lei. Ma perché bisogna fare indagini? Perché bisogna fare indagini su Don Albanese? È un nervosetto lui e la sua Lega Italia, diciamo. Comunque. Perché bisogna fare indagini su Don Albanese? Beh, io ho chiesto indagini dal procuratore della Repubblica perché voglio capire. Ma lei che faccia i cazzi suoi? Lei si faccia i cazzi suoi, non mi rompe coglioni. Ha capito? La smetta che lei è un buffone. Ma e quindi non può parlare. Dice, io non ha legittimazione a parlare. Lei è un imbecille. Ma lei è un imbecille. Ma perché? Lei è un imbecille. Perché? Buffone. Perché buffone. Bisogna fare indagini su Don Albanese? Niente, non ce l'hai fatta, non ce l'hai fatta. Ma non ce l'hai fatta. No, io non, veramente non lo capisco. Guarda, ma tu lo vai a provocare il centro studi, studi Taormina, sì, dai. Centro studi Taormina. Quello ha perso la brocca. Con l'Eurispes, l'Istat, Confindustria, centro studi Carlo Taormina, il centro studi che sforna ogni giorno statistiche, dati sulla criminalità, cinesi, tutti sti minchioni, abbiamo tutti i dati, tutto. Che c'è, Davide? Chi è il vichingo? C'è il vichingo, aspetta, fermatevi un attimo. Chi è il vichingo? Ha chiamato. Vichingo! Ciao Cuciani, ciao Parenzo. Che cazzo vuoi, vichingo? No, che voglio. Volevo fare due chiacchiere, se lo permetti, col buon Parenzo. Adesso Parenzo va al cesso, purtroppo, per cui non so se ti può dare retta. Magari ti chiamiamo domani, vichingo. Ah, che tu dici di essere un parente del Duce, vero? Sì, io sono poi nipote dei Montedì. Vai, Parenzo, di qualcosa in concupiscenza di andare al cesso, di qualcosa al parente. No, ma del che cosa gli vuoi dire? Poveretto, cioè, se parliamo, mi fai dialogare con un signore che si fa chiamare il vichingo, già questo voglio dire, deve essere. In più, questo tal vichingo sospira di essere il paese del Duce, ma mandiamolo a quel paese. Vichingo, domani ti chiamo, La Zanzara. Donato da Varese, ieri. Donato, buonasera, ciao. Buonasera, ciao Giuseppe. Dimmi, ciao. Che è successo? Dimmi, no, che a me la presenza di, come si chiama, di Parenzo, il fatto che abbia poca voce, che il dottore abbia indicato di non sforzarsi troppo perché gli potrebbe un attacco poco retto, a me non mi interessa. Non ti interessa? Niente, no, non ho detto che ho poca voce, ho detto che il medico mi ha prescritto di non dialogare con i miserabili e tra questo... Capito. Ha messo e citato proprio questo personaggetto, okay. Si vede che questa maschera schifosa, questa latrina.

Davide, ci sei? Scusa, eccomi qua. Bene, dal bagno, tutto a posto, eh? Meno male. Allora, mi è venuto in mente di fare le condoglianze a un po' di gente di come si chiama? Di Corleone. Presi a caso, così ci sono diversi Provenzano a Corleone, diversi Provenzano. Allora, beccherei subito il primo, non mi ricordo nemmeno come si chiama, non mi interessa. Un Corleone, datemi un Corleone a Provenzano, sì, un Provenzano a Corleone, è uguale, voglio fare le condoglianze alla grande famiglia Provenzano. A me dalla morte di Provenzano non me ne fotte nulla, meglio. Diciamo la verità, non so, nessuno di noi oggi è in lutto, tranne forse i familiari stretti, naturalmente, cioè l'Italia non è che rimpiange il signor Provenzano, su questo non c'è dubbio. È che io farei una telefonatina a Corleone, ci sono diversi Provenzano, la grande famiglia Provenzano, ovviamente non tutti sono parenti, però farei un esperimento di condoglianze. Pronto? Buonasera, Associazione Amici di Corleone, salve. E che desidera? Volevamo fare le condoglianze, signora. Condoglianze? Perché? È morto, signor Provenzano. Provenzano? Chi, ora? Bernardo, signor Bernardo. Conosce il signor Bernardo? No, io non ho pare Bernardo io. Ma non si vergogni, signora, volevamo fare le condoglianze. Non no, c'è... niente, sono Provenzano io, ma non niente su Bernardo. Sì, ma è morto, lo sa che è morto? No, non so, non siamo parente. E volevamo fare le condoglianze, non si deve vergognare. Ma a chi condoglianze? Alla famiglia Provenzano. Io ma... non faccio parte della famiglia io. Ma non c'è da vergognarsi, signora, non no, si può. No, non è per vergogna, nemmeno lo conosco. Ma comunque è la famiglia. C'è la grande differente. No, ma è la grande. Io non lo conosco, non siamo nemmeno parenti. Ma c'è la grande famiglia Provenzano, volevamo fare comunque le condoglianze, signora. Un uomo, una perdita. Sì, no. Ma è una perdita importante. Pronto? Sì, lo so. Per me è un grandissimo signore, io non che posso parlare, ma nemmeno lo conosco. È una perdita. Però io no. Come parente non diamo, siamo un altro siamo di Provenzano. Non c'è dubbio, un attimo sì, che le passo. Mi dispiace. Ti dispiace? Io che parlo, non lo conosco per parente. Non, è un uomo importante. È un altro siamo, quando ce n'è colotta è un siamo parente. È un uomo importante, dico, un uomo importante. Per l'Italia è stato importante, no? Sì, è stato importante, ma io non me lo conosco e non diamo parente, è un bravo, è stato un bravo uomo o no? Sì, per me è onestissimo uomo. Onestissimo, certo. Sì, onestissimo. Io non ne posso parlare male, perciò... Non si può parlare male, no? Io non posso parlare male di nessuno. Dicono perché fosse... per me sono state tutte oneste. Dicono... Però io non lo conosco. Dicono fosse il capo della mafia, dicono. Ma io non, a me non so niente io. Non risulta? A lei non no, risulta? No, non ha proprio avuto né avvicinamento né niente. Perché? Non lo conosco. Le passo... È un paesano come tutti gli un paesano, altri. Per me è un personaggio pure importante. A me, io non lo conosco. Un uomo d'onore, signora. Un sì, uomo... sì, un uomo... A me non è che io sto parlando male, no, nessuno parla male. No, non bisogna per parlare me tutti male. Signori, ognuno abbiamo il nostro carattere, il nostro modo di fare. Sì, ma è Dio che ci deve giudicare, dicono che, noi. Cioè, dicono che abbia ammazzato un po' di gente, però... Dici tu, so quello che dicono, tutti ne parlano male. Tutti ne parliamo male di una persona. C'è che ne parla bene e c'è che ne parla male. Comunque, per lei era una brava persona. Per lei è una bravissima persona. Bravissima. Un attimo non che le passo... Un attimo, nome, un attimo... Non lo conosco di nome, ma non lo conosco di persona. Per carità. So i parenti conosco che erano persone bravissime. C'era bravissime. Il signor Provenzano. I cugini io conosco, che i cugini di casa. Persone venivano. Bravissime, bravissime. Bravissime persone. Bravissime. Io con le signorine andavamo a messa assieme, perché avevo 90 anni. Certo, quelle certo. Erano più grandi, se me già sono morte. Oh, certo. Comunque ci vedevamo sempre in chiesa. Comunque, lei non risultano stragi, mafia, gente ammazzata? No, per me è una bravissima persona. Una bravissima persona. Una persona. Perché era un cugino in primo grado, era ingegnere questo, ingegnere provenzale. Ingegnere. Perché erano geometri, ingegnere. E si frequentavano, dicevano cugini, ma non siamo cugini, no. Però con stesso cognome, io con tutti, questo sì, eravamo cugini. Per cui il cognome non si... Le signorine Provenzano erano l'educazione di una persona importantissima. Importantissima, certo. No, no, io bene ne posso parlare. Adesso che è morto, bisogna accendere un cero, bisogna fare una preghiera, o no? Ah, sì. Facciamo sì, una preghiera insieme, signore. Sì, ci deve... Io per tutti prego, per tutte le altre preghiamo per sì, per tutti io preghiamo. Prego. Com'è che no. Si fa la preghiera? Come si può fare? Che preghiera si può fare? Si porta un cielo alla tomba e poi si c'è padre, la nave di segue oppure col pensiero. Oppure Padre nostro, Signore, oppure l'anima, è che si pensa so peccato. Certo, oppure Padre nostro, come Padre nostro che sei. Io per tutti prego. Preghiamo, io preghiamo. La famiglia dell'ingegnere Provenzano li conosco tutti. Preghiamo, preghiamo insieme, preghiamo insieme. Sì. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Da oggi il nostro pane quotidiano. Rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. E non c'è nulla tentazione, ma il bisogno male. Amen. Ma io per tutte le aule del purgatorio, per questo signore, è morto preghiamo per Bernardo, preghiamo per Bernardo Provenzano. Preghiamo, preghiamo. Preghiamo, preghiamo sempre. Io per tutti prego. Prego. No, io personalmente lui, perché allora io ero piccolo, non ricordo. Ma le zie così che andavamo in chiesa, le ricordo. Le ricordo, certo. Sì, perché pensavamo vicino di casa, Provenzano e Provenzano. Ma non c'è parentela. Comunque, però come vicino di casa. No, il signorino Provenzano due santi. Però bravissimo. Veramente due santi. Bravissimo. Io ero bambina e loro erano grandi. Ma lei andavamo sa... in chiesa, sono stati cattolici, come non si conosce. Ma lei sa che è, il che è un boss? Ah? Un boss. Lei sa che è stato un boss mafioso, signor Bernardo? No, possono dire tutte quelle che vogliono. A me non mi interessa. Per me sono tutti galantoni. Perché io, personalmente io, mio padre fu procuratore, capo in posto di rete, e lo sai con la casera di Osa, ed era rispettato da tutti. Non possiamo parlare le male passo, di nessuno. Le passo il presidente di nessuno. Io posso parlare male. No, certo, le passo il presidente dell'associazione, un attimo, associazione importante, aspetti. Pronto. Abbiamo grazie per aver partecipato al saluto a Binnu Utraturi, detto Zu Binnu, Bernardo Provenzano. Grazie per questa preghiera. Io sempre prego per tutti. Grazie per questa preghiera che ha rivolto a quest'uomo. Da lassù Binnu Utraturi le manda un abbraccio. Grazie. Grazie. La saluta Binnu Utraturi. Grazie signora, arrivederci. Tanti auguri per tutti. Tanti abbracci, cara, tanti abbracci. La zanzara, cioè aspetto la pubblicità o lo stacco al parcheggio per poter andare a casa e non avere interruzioni. Grande. La zanzara. Se volete sapere cos'è il razzismo, andate un po' nei paesi africani. Oltretutto lì non ci sono due coglioni come voi che danno dei razzisti agli italiani. Sul fatto di Fermo, quante cazzate avete detto? Quante cazzate ho sentito? E io sono di Fermo, conosco i fatti. Quante cazzate! E conosco anche il Mancini. Quante cazzate ancora! Traffico, veo chi là. La zanzara. Allora, questo fenomeno di Fermo che dice non sapete niente, non sapete un cazzo, io sono di Fermo, so tutto di quello che è successo e so tutto di Mancini, che è quello, come sapete, che è in galera, secondo me, con delle motivazioni assurde, tra l'altro, cioè dovrebbe rimanere in galera semplicemente perché quello è morto. Poi lo vogliono tenere in galera perché siccome a Fermo, così scrive il giudice, ci sono un sacco di immigrati, potrebbe reiterare il reato. Adesso lo voglio chiamare questo fenomeno, sto fenomeno di Fermo che dice di sapere tutto. Pronto? Ma tu sei il fenomeno di Fermo che dice di sapere tutto? Poi, porca miseria, che onore. Sono Cruciani, adesso vediamo. Sono Cruciani. Vediamo, buonasera. No, buonasera. Bello questo accento fermano, questo sì. Accento fermano. Allora, perché dici che noi non sappiamo un cazzo e tu invece sai tutto? Perché come sempre i giornali, sai, no? Dai, dimmi cosa sai allora, vediamo se fai il fenomeno, vai. Il fenomeno, non so un fenomeno. E allora perché dici, voi non sapete un cazzo, io sono di Fermo e conosco pure Mancini. Certo, certo, perché ne ho sentite tante di cazzate. E allora che cosa sai? Sai i fatti? Che fatti sai? Ah, beh, logicamente non è che posso sparare i fatti così. Ah, non sai niente, non sai niente, benissimo. No, non so niente, voi non sapete niente e sparate a cazzo. No, veramente noi sappiamo più degli altri perché abbiamo fatto per primi le interviste ai testimoni, eccetera, eccetera. Quali testimoni? La presunta testimone, quella che comunque è andata lì e ha raccontato la sua versione dei fatti dopo che erano iniziati i fatti, peraltro, ma questo l'abbiamo detto subito. Ma scusa, sì, ma sì, tu conosci Mancini? Sì, sì, come no. E che è? Che personaggio è? Ma diciamo che, come è stato descritto, il personaggio è un po' esuberante, è un po' un personaggio... Vabbè, ma allora che cosa sai più di quello che si sa di Mancini? Cosa sai di più? Niente! Oh! Pronto? Vabbè, arrivederci. Fermo. Arrivederci. Allora, ragazzi, mi avete fatto una testa così su questa vicenda di Valerio Vassallo. Allora, come sapete, Valerio Vassallo è quello che io voglio portare in tribunale perché mi ha dato del pedofilo. È il responsabile di questo gruppo animalista che è venuto qua sotto a rompermi i coglioni nel periodo in cui c'è stato lo scontro frontale con i vegani, eccetera, eccetera. Allora, praticamente... L'ex ragazza sostiene che addirittura è stata presa a sprangate da Vassallo perché è andata a ritirare delle sue cose a casa, si sono lasciati i due, chi se ne frega, con il suo nuovo fidanzato, lui li ha aggrediti a sprangate. Ovviamente Vassallo nega tutto, ma ci sono delle foto con lui in ospedale, a me fanno molta pena queste foto, cioè non me ne frega niente. Però anche agli imbecilli va data una... in qualche modo una possibilità, e non mi fa piacere che un imbecille venga corcato di botte così sembra, anche se le versioni sono discordanti, venga corcato di botte dal nuovo fidanzato della sua ex. Gli altri invece sostengono, in questa faida tra animalisti, che è stato lui ad aggredirli a sprangate. Ecco, io una telefonatina in ospedale la farei al signor Vassallo, che pare che sia ancora in ospedale, così col braccio rotto e chimosi. Chissà quali medicamenti a base di esperimenti su animali gli hanno dato un po' per, no? Per salvarlo. Pronto? Vassallo? Sono Cruciani, ciao. Ciao Cruciani. Senti Vassallo, ma io per carità ti sono vicino, che è successo? Ah, niente, sul fatto dell'aggressione. Ma io per carità, io ti considero come ti considero, però quando uno sta in ospedale con tutto ingessato mi preoccupo. Che bravo che sei gentile. Scusami, t'ho visto là con le cronache che parlano di tu hai aggredito a sprangate all'ex fidanzata. Sì, ma tu ci credi? Ah, non lo so, amico mio, guarda. Ci sono dei giornalisti che scrivono stronzate, altri che dicono la verità. Io la ragiono solo, se ho dato sprangata a qualcuno, che mi facessero vedere almeno un divido ce l'hanno. Però a quanto pare non ci sono neanche presi dei dividi. Presi però a sprangate da Valerio Vassallo. Lo so, ho letto. Amico mio, però con le donne non si litiga, No, ma io sono molto femminista, io la donna non la insulto neanche una donna, tu immagina, figurati se gli metto le mani. Beh, una che mangia la carne li insulti, voglia come no, una che mangia la carne... Vabbè, gli posso dire mangia cadaveri, ma non è che... Vabbè, comunque, la cosa importante, Vassallo, come stai innanzitutto in ospedale? Io mi sono veramente preoccupato, ho visto tutto smagrito. Ho firmato le dimissioni. Ah, dimissioni da che? Dalla vita, no? No, ho firmato le dimissioni perché non sto in un ospedale a farmi impasticcare. Però ti hanno dato un sacco per curarti le ferite, ti hanno dato un sacco di roba di origine animale. Sono sincero, i punti di sutura purtroppo non penso che siano di origine animale. È nylon. Cioè tu t'hanno preso, sei stato ferito e ti sei preoccupato di come ti curavano. Sì. Se c'era roba di origine, diciamo, segna e dimostra che avrebbe bisogno anche di cure psichiatriche. Guarda come è semplice, perché devo prendere il cortisone che fa male e tanto guarisco lo stesso? Non lo prendo. Cosa serve prendermi l'antidolorifico? Resisto al dolore, basta. Cioè, non ho capito, a te che cosa ti hanno dato? Per che cosa c'hai innanzitutto? Ho dei punti in testa, poi? Un po' di tumefazioni varie, un po' di... Ho capito, ma ti hanno messo delle creme, delle cose, delle... No, non mi sono fatto niente. Hai rifiutato tutto quello che è di origine animale, ma non c'è credo nemmeno... No, ascolta, mi hanno fatto un'iniezione per la... come anestesia, non so, amico mio, devi informarti. Io, io infatti vorrei tanto che la medicina facesse dei passi avanti, perché i metodi alternativi ai farmaci non testati ci sono. Amico mio, ma se non ti facevano l'iniezione, magari, cioè, non dico che crepavi, però morivi di dolore. Queste cose si raggiungono grazie alle sperimentazioni sugli animali. Non è vero, Cruciani, guarda che ci sono, informati bene, guarda che ci sono dei metodi. Vabbè, comunque tu ti sei fatto dimettere apposta, perché non vuoi essere curato con i metodi tradizionali. Chiamami pazzo, io non voglio stare in ospedale, e poi volevano ricoverarmi, e cosa gli chiedo, la dieta vegana in ospedale? No, me ne vado a casa mia, sto bene, e mi arrangio. Però la cosa fondamentale è questa: la tua ex fidanzata dice presi a sprangate. Ora, i vegani non dovrebbero essere pacifisti. No, ma infatti, ascolta Cruciani, a me è quello che dispiace. Hai alzato le mani o no? Ma va, Cruciani, mi ha cazzato le mani. Allora, tu immagina, io ho dato, sono comunque sincero. Comunque adesso si dia una calmata, Cruciani, stia lì tranquillo. Dimmi, hai dato? Ho dato due pugni. Questo non si fa. Sono contento di averli dati, si chiama legittima difesa. Ah, legittima difesa. Poi ho visto sta ragazza che comunque, anche se una ex, gli voglio bene, che era spaventata, e mi sono lasciato pestare, tanto le botte passano. Hai solo dato due pugni per legittima difesa. Cruciani, se io ti prendo, ti faccio sentire del dolore, anche te magari reagisci un po' male. Poi, quanto hai dai serato quei due pugni, dici stop, adesso basta, non esageriamo. No, ma chi ha iniziato? L'ex ragazzo, il nuovo fidanzato, chi ha iniziato? Diciamo il suo nuovo amichetto fidanzato sarà. Ma io lo chiamo amichetto, dai, non posso mica dire. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma perché siete arrivati alle botte? Spiegami, è una cosa curiosa pure questa, o no? Ma secondo me c'era un astio già pregresso, perché sta persona qua, già più volte gli avevo detto che si comportava male, che era un pochino mortaccione di fame, faceva lo scemo con diverse persone. Sì, e però detto, comunque sei andato via dall'ospedale per non essere curato con le robe animali. Sì, perché non volevo stare in ospedale, perché non servivano un cazzo quei farmaci lì che mi volevano dare. Intanto t'hanno fatto un minimo riprendere quei farmaci lì. Vabbè, ascolta allora. Ti ho detto, il filo di sutura è nylon, quindi non c'è niente di strano. Gli aghi sono d'acciaio chirurgico. Poi? L'anestetico io non lo so, sì. E spero di no, ma anche se fosse, purtroppo io vorrei tanto che un giorno si cambiasse le medicine. Ci sono tanti prodotti non testati. E poi altre cose che ti hanno messo? Creme? No, non mi sono fatto mettere più niente. Volevano farmi dei lavaggi schiumogeni per la testa. No, ho rifiutato tutto. Ciao Vale. Ciao, ok, fatti bravi. Ciao. A voi quel paese. Zanzare, Uakbar! Zanzare, Uakbar! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Lì negli uffici di Radio 24 dovreste togliere i water e mettere delle docce. Così Cruciani, quando vuole pisciare, almeno si lava. Allora, c'è Telese? Luca? Che cazzo ridi? Non c'è niente da ridere qui. C'era questa battuta geniale. Di chi? Che devono mettere le docce, così quando Cruciani vuole pisciare intanto si lava. Sì, no, ma questo è un genio assoluto. Ma tutte le aziende dovrebbero avere le docce, secondo me. Cioè, ma in tutte ce le aziende. Noi. Voi ce l'avete dove? Dove ce l'avete? In che azienda? Numero di questo genio, richiamiamolo. No, ma tutte le aziende dovrebbero avere, invece dei bagni che non servono a niente, spesso c'è delle docce, così uno ogni tanto fa una doccia, eccetera, può anche andare, che ne so, a fare ginnastica intorno e poi si toglie un po' e di sudore. E poi si libera. Esatto. Allora, andiamo a Trapani da Vito. Vai, Vito. Ciao Cusani. Dimmi, dimmi. Mi hai fatto aspettare 2 ore. Senti, vai, vai. Dico, io penso che ieri avete veramente esagerato. In che senso, il scusa? Il tizio che chiama da Varese. Donato, ma Donato fatto, non si può discutere, ci si deve combattere, non si può discutere, è un personaggio straordinario. A chi giova sentire questo? A chi qui giova? Che cosa significa? Al presidente della Camera. Quello è un altro discorso, appena detto quella parola lì, ho detto subito, senti amico mio, se tu vuoi dare ma non basta, senti amico mio, cioè questa cosa qui non si può sentire, voi siete due persone intelligenti e quell'altro lì, Parenzo, che si presta a fare il... Ma cosa si presta? Cosa si presta? Si presta perché alla fine lui fa la parte del sinistroso, tu fai la parte del destroso. No, ma non ho capito, Vito, qual è la protesta? Non capisco qual è la tua protesta, francamente. La protesta è che questo tipo di telefonate credo che servano soltanto ad acerbare degli animi, esacerbare gli animi. Scusa, perché sì, io dovrei avere una funzione invece, come dire, di ammorbidire gli animi? No, a me non me ne frega niente, io voglio tirare fuori quello che c'è in Italia e tiro fuori quotidianamente quello che c'è in Italia. Tu sei per esempio una persona diversa da altre, non per questo più degna o meno degna, hai un altro tipo di modo di parlare, eccetera eccetera. Non capisco perché ti fa schifo, cioè ti può fare schifo Donato Tavarese, ma perché vuoi impedire a Donato Tavarese anche di dare della puttana a chi che sia? Poi si assume la sua responsabilità. Ma non è giusto. Ma infatti quando ha insultato della veste di patriota e poi non rispetta una persona che rappresenta quando ha insultato in quel modo la Boldrini, io ho detto: senti amico mio, se tu vuoi insultare la Boldrini in questo modo lo puoi anche fare, ti assumi la tua responsabilità, io mi prendo le distanze da quello che dici, perché io non do della puttana a nessuno. Comunque è roba di ieri, ma l'avete ripassata fino a 3 no, secondi abbiamo fa. Ripassato, credo che non sia stato ripassato quel pezzo, amico mio. Come no? È uguale. Comunque va bene così, siete due fenomeni, però po' di limitazione, poco. Le limitazioni sono solo nel codice penale, amico mio. Codice penale, processi, eccetera, dove abbiamo sempre vinto, peraltro. Dove abbiamo sempre vinto. Vabbè, va bene, Vito. Francesco da Bari. Luca, ci sei sempre? Sì, sempre. Allora, un tizio. Però devo dire che l'attacco proditorio a Boldrini, poi ne parliamo. No, l'attacco proditorio, c'è un attacco di oggi. No, te lo dico subito. Aspetta. Cazzo così alla Boldrini, una volta che vuole dare il sangue, ma datele una medaglia anche a lei. Aspetta un secondo. Allora, io ho letto un post, me l'ha segnalato un ascoltatore. Poi a un certo punto, un tizio che ha fatto, credo, ed è ancora il vice sindaco a Barletto, a Molfetta, non so, che si chiama Antonio Cannito, il quale ha scritto: la Boldrini chiama al telefono Eugenio Perez, direttore del centro trasfusionale di Barletta. Brava. E dice: sto donando a Roma e vorrei che il mio sangue arrivasse giù da voi. Brava. Che, no, è una cosa un po' diversa dire sto donando il sangue. Tutti dovrebbero fare così. Vorrei che il mio sangue arrivasse da voi. Tanto non si può fare. Non è che, che vogliamo fare la fialetta. La fialetta con la banca, dà il sangue a Roma. È come se lo dessi, perché siamo tutti insieme. Lei voleva avere. Ecco, arriva il sangue della Boldrini in giro per l'Italia, tipo la Madonna per il sangue della Boldrini fino in Puglia. Dai. Di Moro, il mio sangue ricadrà su voi. Ma che cazzo dici? Ha chiamato quello. Allora ti faccio sentire, ti faccio risentire ancora una volta, perché è la terza volta che lo mettiamo, quello che ha detto il signor direttore del centro trasfusionale di Barletta. Si chiama Perez questo signore, il quale ha ricevuto a un certo punto la telefonata della signora Boldrini, ovviamente ad uso e consumo, come è evidente, non è che siamo nati ieri, anche tu non sei nato ieri, no? Cioè ad uso e consumo dei media, della comunicazione, mi sembra evidente, no? Oppure puoi negare anche questo? Oppure vuoi negare anche questo, Telese? Lo vuoi negare? Era una bella comunicazione, un simbolo positivo, non ci guadagna niente, lo fa per dare un bel segnale. Mamma mia, come sei ingenuo. Tu quando si tratta di Renzi sei dietrologo, dici vai qualsiasi cosa. Vai a donare pure tu, Giuseppe. No, io non dono il sangue. Dona. Ma no. Poi liberati nella doccia. Ma non c'è bisogno. Non c'è bisogno, perché lo dice questo signore. Senti cosa racconta. Si è chiamato proprio 5 minuti fa, che stava donando a Roma, mi ha chiesto se ci fosse stata la possibilità di far arrivare il suo sangue da Roma qua in Puglia. Io l'ho ringraziata, però ho detto che tranquillamente i cittadini pugliesi si stanno adoperando a queste necessità trasfusionali, però mi ha fatto molto piacere che anche lei stava a Roma al servizio trasfusionale di un ospedale di Roma donando il sangue per i cittadini pugliesi. Che dici? Forza Boldrini. Ma perché non lo dai anche? No, allora questo Cannito dice. dice una cosa senza trovo senso, questo cioè... comportamento irriguardoso ed offensivo nei trovo... aspetta, trovo questo comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti di tanti donatori, come se il suo sangue fosse diverso e nobile tanto da riportare in vita quelle povere vittime e di sanare immediatamente le ferite dei sopravvissuti. Trovo questo gesto umiliante e vergognoso. Allora, una cosa è dire ho anch'io donato il sangue, donate il sangue. Una cosa è chiamare un signore e dire vorrei che il mio sangue arrivasse giù da voi, magari con una targhetta scritta questo è il sangue della Boldrini. Dai, su. Dai, dai. Va bene, Sergio da Torino. Senti Sergio da Torino. Anzi, chi c'è? Che mi dite? Sei Francesco da Bari, c'erano, giusto? C'era prima Francesco da Bari e poi Sergio da Torino. Francesco, dai. Vai, Francesco. Ciao, Cruciani. Dai, hai donato? Senti, niente, a proposito del disastro. Hai donato il sangue? Chiede per... Hai donato il sangue? No, perché sono molto lontano da Andria. Sono da Turi, in provincia di Bari, e Andria è distante 80-90 km. Comunque c'è già la coda. Vabbè, ma c'è già la coda, ma dai, su. È già no, ma non ti fanno nemmeno accedere all'ospedale, sono passato davanti al policlinico. No, serve ma il sangue della Boldrini, allora serve meno il sangue, male che c'è la coda. Serve il sangue della Boldrini, il sangue del senti, presidente della Camera, magari nella provetta con scritto sangue del presidente della Camera. Quello risorge. Senti, Cruciani, velocemente volevo dire che su Facebook impazzano dei post dove c'è ironia sul disastro ferroviario, sono quasi tutti del nord, sembra quasi che noi qui al sud siamo Bastardi. Fermi all'età della pietra, questa gente va smerdata. Ma dimmi un nome, dimmi un nome. Miserabili. Per esempio c'è Nicola Destro da Padova, non so se è amico di sì, Parenzo. No, ma Parenzo figurati se condivide queste cose qua, no, non dite cazzate ragazzi. No, eh. Però voglio solamente che si prenda posizione, che insomma qua comunque abbiamo tutte qui le non è la cosa, amico mio, qui non è la questura, si prenda posizione sì. Non è la, la, la... No, va no, bene tutto, va bene le denunce, vanno bene. Non si prende posizione, però che so dei pirla possiamo dire. No, si prende posizione. Ma anche perché ci sono 9000 chilometri di rotaia unica, lo abbiamo appreso in Italia. Quindi sì, non è ma che non saranno è quello, tutti non è guarda che alcuni ferrotranvieri del Veneto oggi, alcuni dicono che sì. Se fosse successo in Veneto una cosa del genere non ci sarebbe stato l'incidente, cioè ci sono altre strumentazioni, ma mica per il Veneto, perché magari... Aspetta un attimo, questo Nicola Destro, che dici? Padova, Nicola Destro, ma l'hanno segnalato, Nicola Destro di Padova, che cazzo vuole questo qua, che dice? Francesco, che dice? Sì, si è poi scusato pubblicamente, ha messo un post dove ha chiesto scusa, però intanto ha scritto. Cioè cos'è intanto... che ha scritto? Cosa ha scritto? Niente, che era contento del disastro ferroviario, dei terroni in meno, roba di questo genere qui. Ma non è possibile che ha scritto una cosa del genere, dai. Cruciale, che devo fare? Devo fare lo screenshot, te lo devo mandare. Trovo, miserabile dai. Ancora di più perché chiede scusa, rimanesse almeno razzista dell'Illinois. Sì, si è giustificato col fatto che era stato postato in un gruppo chiuso, quindi... Insomma, ecco, la cosa che più mi stupisce dell'incidente dei treni in Puglia è il fatto che ci siano i treni in Puglia. Ah, l'altro sì, quello invece, ha detto. Quello sì, ha questo ha detto. Ma no, spiritoso! Ce n'erano altri dove dicevano che comunque... Sì, Nicola Destro, ragazzo italiano che ieri aveva indagato, aveva fatto una battutaccia, qualcuno si scusa, sì, qualcuno l'ha presa sul personale, ma te credo, cioè, come la devi prendere, scusa. Vabbè, Francesco, Sergio va bene, da Torino, vai. Sergio, ciao. Torino. Buonasera. Dimmi. Cruciani, buonasera. Io non so se si ricorda, forse si è dimenticato. Qualche mese fa avevo chiamato dicendo di essere Cristo II. Si ricorda, ma aveva sparato un po' a zero. Chi saresti tu, scusa? Chi saresti? Ci possiamo andare del tu, ci possiamo andare del tu. Sì, ma chi saresti tu? Infatti ti sto dando del tu direttamente. Chi saresti? Io mi ero sentito di essere Cristo II. Speriamo in bene che sia una cioè una tu cosa saresti Cristo II. Eh sì, te l'avevo già detto. Sì, ma non è che se me l'avevi detto. Allora non è che, se mi dici che sei Cristo II, allora. Se sì, non è che sia vero, per carità, speriamo sia una cosa positiva. Come, ma come cosa speriamo, è positivo? Cosa? Speriamo che la teoria che tutto l'universo sia Dio, anche tu, anche Parenzo, tutti siamo Dio. Tutti abbiamo il cuore di Gesù Cristo in corpo. No, ma io non ho capito una cosa, Sergio. Tu pensi veramente di essere Cristo II? Ma io lo spero. Io lo spero. Cioè tu pensi di essere Cristo II? Sì, speriamo in bene, sì. Ma perché uno dovrebbe... Ma perché devi disilluderlo, Giuseppe? No, ma io non lo so... Non lo... Avrà un messaggio da portare al mondo e tu lo devi... Un messaggio da portare al mondo, speriamo sia una cosa positiva. Io no, ci ce dicevo... l'hai, dico, ce l'hai, mo te difendo, manco ce l'hai un messaggio. Non è che Cristo è arrivato a fare una passeggiata. Hai per una carità, novella, una buona carità. Novella? Per carità, speriamo. Qual è il tuo messaggio? Qual è la buona novella? Ma no, volevo innanzitutto chiederti scusa, Cruciani, perché tu hai sbroccato per primo, io ti ho mandato a stendere. Tu mi hai mandato? Qual è il tuo messaggio al mondo, Cristo secondo? Dico, speriamo che tutto l'universo sia Dio, anche quel boss mafioso, anche lui sia Dio. No, speriamo che non sia Dio Provenzano, chi se ne frega che è morto. Speriamo che tutto sia Dio, speriamo che tutto sia Dio. Vabbè, Sergio, che cosa hai da aggiungere rispetto al fatto di proclamarti Cristo secondo come già avevi fatto tempo or sono? Tempo ti ricordi, no? Ti ricordi? Ma sì, vabbè, mi ricordo, ma qual è il punto? Non ho capito. È il punto, speriamo in bene, speriamo. Io sto andando avanti per la mia strada. Anche qua, ad esempio, a Torino l'hanno messo. Hai fatto dei miracoli. La tua telefonata l'hanno messa su YouTube. Sì, ma hai fatto dei miracoli o no? Ti hanno anche un po' sfottuto perché sì. Tu hai detto non sei tu Cristo secondo, l'hai detto. Hai fatto dei miracoli o no? Ma pian pianino sto cercando sto cercando se riesco. Ma che stai cercando? Ma dai, sto cercando, se Sergio, riesco, ma vatti a ripetere. Gli eventi si vedono da soli. Ma vatti a ricoverare, va. Davide da Cuneo, dai. Davide da Cuneo. Davide. Eccomi. Dimmi. Pronto? Vai. Allora, il ministro Del Rio si deve dimettere a questo punto. Il ministro Del Rio si deve dimettere, ma è quello certo. Che dicono i 5 Stelle, ma, ragazzi, ma no, non è che c'è l'incidente chiaro, ferroviario e uno si dimette, dai, è una cazzata questa qua, dai, anche l'antirenziano Telese credo che possa dire che è una minchiata. Ma manco dai. Morto, che c'entra il ministro Del Rio, quella linea dal 2007 aspettava di essere finanziata con i fondi della comunità europea, Del Rio non era ancora nato, era sindaco di Reggio Emilia e faceva campagna a Cuneo. Ma perché si dovrebbe dimettere, Davide, perché si dovrebbe dimettere, spiegami. Non è una questione nord e sud, siamo al ridicolo. Sai che fanno domani i terroristi invece di andare in giro con Kalashnikov? Che fanno? Certo, telefono al capostazione, gli dicono guarda, vai tranquillo, e quello manda e Del Rio. Che c'entra Del Rio? E Del Rio che c'entra? Del Rio cosa c'entra? Ma che sono io il ministro dei trasporti? Sì, e quindi il ministro dei trasporti deve rispondere di tutto quello che accade in tutti i caselli e in tutte le stazioni d'Italia. Ma il ministro dei trasporti risponde che c'è una linea che non è sicura. Allora, o domani dite che quelle linee lì non viaggiano più. Ma la linea che non è sicura, casomai sono responsabili quelli che governano la linea, no? Cioè anche i capistazione, evidentemente, sì. Le aziende che gestiscono la tratta. Ma c'è una legge che glielo permette, mica lo decidono. Sì, lo so, amico mio, però non è tutto così semplice. Ma non l'ha fatta Del Rio, non è sua, capisci? Non ha fatto tagli, non ha fatto interventi. Qui a noi non ce ne frega niente di Del Rio, non è che dobbiamo salvare... Una beneamata... Non è che dobbiamo salvare Del Rio da qualche cosa, non abbiamo nessuna simpatia, non ce ne frega niente, ma oggettivamente dire che si deve dimettere Del Rio è una cretinata, dai, forza. A domani, ciao. Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.